negozio comincia a pigliar buona piega e anch'io comincio a ritrovare il bandolo. Oh, che testa! Oh, che gran donna quella mia sorella! Veramente colui non era un cavolo che disse quel proverbio che la donna non punta più del diavolo. Ma non capisco ancor come farà sbrogliar la matassa. Io per me credo che abbia in testa di bindoli un vespaio e più bugie e raggiri d'un notaio. Il ciel sa colà dentro quella donna cosa darà d'intendere. Finora vedo gran carne al fuoco, ma non vedo se ne potrò cavar qualche costrutto. Vieni, sbrigate, Nandi, è fatto tutto. Come? Il vecchio in trappola, andiamo presto. E dove? A mutare un altro abito. Se dici che la cosa è aggiustata, non è finita ancora la mascherata. Ma dimmi almeno qualcosa. Però non posso. Almeno dimmi come sarà la conclusione. Vieni.